ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Barisone è diventato vicepresidente, eh? Crucia, è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'ha a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ancora tutti questi intellettuali da sapazzo, tutti questi 6 minchia di mille lire, non hanno capito che il prossimo partito che governerà l'Italia sarà il partito della zanzara. Partito della zanzara. E il Brasile è la nostra punta di diamante. Un Brasile agli interni. Un Brasile agli interni. Non avete caputo un cazzo ancora. Donato da Varese, ministro per l'immigrazione. O facciamo, inventiamo il suo ministero e lo facciamo ministro per l'immigrazione a Donato da Varese, così la blocca per una volta e per tutte. E poi a Mauro da Mantovano, un minchio potremmo mettere a Maurone. E che Benedetti! Il solito stronzetto che se becco chi è, vado lì in Viale Monterosa di persona in auto e lo prendo a schiaffi, sto deficiente. Comunque italiani, siete pronti? Noi sì che la risolleviamo l'Italia, noi se quattro magnacce che superano a Montecitorio, a Palazzo Chigi, a Palazzo Madama. Il partito della zanzara salverà questo paese. No, è possibilissimo. Lo salverà, lo salverà. Toc toc! Cala, cala. Necessita un chiarimento di Enzo Spatelino. Ah, dimenticavo, il candidato premier per il partito della zanzara è il signor Alberto Gottardo. Cosa? Alberto Gottardo. E a Giuseppe Cruciano facciamo presidente della Repubblica. E a Parenzo lo mettiamo a poliziare le stanze Gottardo, a poliziareci tutto il gabinetto e tutte cose. Comunque italiani, siete pronti? Eccoci. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è e dobbiamo assumercelo. Via! Da questo canale! Bravo, bravo. Senta Negri, ma lei ha avuto dei, diciamo, delle attenzioni di alcuni programmi tipo la Zanzara, così, com'è andata? No, guardi, la Zanzara è qualcosa di estremamente scorretto. Loro ti fanno parlare e poi dopo, quando hai finito, ti montano e ti riempiono di insulti mentre parli. Quindi io assolutamente non parteciperò mai più, non risponderò mai più alle loro telefonate, perché loro ti fanno una domanda, ti fanno parlare, poi montano il tutto e ti ci mettono una sequela di insulti irripetibili. Cioè siamo a questi livelli. È meraviglioso, meraviglioso. Eccoci qui, Monterosa 91, 20149, Mailand, detto in tedesco, eccoci qui, dagli studi della 7, non me ne fotto un cazzo, non specificare come ogni volta, da una stanzetta della 7, David Parenzo, applausi. Che c'è? Sembri, perché sei così contento? Ma perché sei così contento? Ah, quando vince l'Europa, quando vince l'Europa sei sempre contento. Amico mio, amico mio, tutto finito, ecco, tutto qua. Cambia. Tutto ecco qua, cambia. Pippone di Parenzo sull'Europa, sui sovranisti, partiamo, partiamo con un pippone, amici, vai, vai, vai, alzati cari, in piedi amici, come cari, al solito. Una cosa alzati molto, molto piedi, semplice, vai. Amici cari, l'Europa ha vinto, il sovranismo è fottuto, arrivano i soldi dall'Europa, ma non solo, abbiamo ottenuto molto di più, bisogna dire grazie alla Germania, grazie a Conte anche ovviamente, grazie la Germania sta con i paesi del Mediterraneo, i paesi del nord sono stati sconfitti, il sovranismo non esiste più. più e vissero tutti felici e contenti. Chi non lo ha capito, molto pacatamente, non capisce un cazzo. Detto come un'analisi dritta, senza troppi infingimenti. Esatto. Senza troppi infingimenti, perché altrimenti... Sentiamo Rinaldi su questo. Rinaldi, poi ovviamente ci occupiamo di altre cose. Rinaldi dice che non si capisce un cazzo. Hanno scritto tutto 600 pagine in inglese. Ma che cazzo è William Shakespeare? Senti, dice proprio così in realtà. Coglioni, non si capisce un cazzo. Voglio vedere. Recovery found vuol di found, vuol di trovare o vuol di pre. Che vuol di found? Aspetta, found. Aspetta, recovery aspetta, found o found? Si dice, non si capisce un cazzo. Li mortacci loro scrivessero in romano, porca puttana. Ci sono 68 pagine da leggere questa mattina, staremo tutti quanti a leggere, per l'altro in inglese bisogna allora capirlo anche molto bene come stanno realmente le cose. Per Salvini è una fregatura grossa come una casa, si lo sapevi. Però giustamente quello fa politica, qualcosa deve dire, no? Che è una fregatura. Vabbè, ma deve entrare nel merito, però. Vabbè, nel merito. È cosa pretendi? Cosa pretendi? Ragazzi, devono trovarsi delle parole nuove. Cioè, anch'io mi devo trovare d'ordine anch'io nuovo. Mi devo trovare un altro mestiere, dici? Sì, che arriveranno i soldi anche a te dell'Europa. Ora compriamo la radio con i soldi dell'Europa. Questo c'è anche nell'accordo. Non credo. Chiudere la Zanzara, c'è un cavillo che ho fatto mettere dal signor Ruth. Signor Ruth, ti svegli. Lo retroscena ha accettato sì. Perché abbiamo detto di scrivere un cavillo il 741 bis di un cavillo finale in cui si dice che i soldi arriveranno, parte di questi verranno dati alla Confindustria per chiudere la Zanzara, il programma questo più antieuropeo che c'è, più dice. Antieuropeista che esiste in Europa, più antieuropeista di Orban, e in Ungheria questo programma non sarebbe possibile sicuro, perché anche Orban lo ritiene troppo antieuropeista questo programma, capito? Spieghiamo come Lega di come cosa Lega, sì, come Lega. Ci occuperemo e preoccuperemo per evitare una fregatura che si vede grossa come una casa, come una casa. In fondo al tunnel di questa brillante operazione. Vai. Andiamo a Meluzzi. Fermo, prima di Meluzzi mi sembra che non ci sia Prodi. Prodi vuole commentare. Prodi vuole commentare l'accordo. Prodi, che dice? Che c'è? Con grande calma, senza urlare, con pacatezza, ore e ore di accordi, trattative. Quello lo in sappiamo, silenzio, dunque. Mentre tutti intorno sbraitavano i cartelli. Allora... Noi lì. Con calma, lei non c'era. Possiamo dire con assoluta pacatezza che questa volta in silenzio i sovranisti l'hanno presa nel culo. No, ma come Prodi, scusi, come l'hanno presa nel culo i sovranisti? Ma lei non dice queste parolacce. Ma con grande alla Zanzara si dicono queste cose. Zanzara è volgare. Sottovoce possiamo dire che hanno preso un sifone nel culo, ma con calma, con grande calma, in silenzio, non vanno più in piazza, non urlano più. Un sifone enorme, grande come la porta di Brandeburgo in Germania. Così, boom, enorme. Faccio anche il rumore, ma con calma, boom, nel culo, ma con gran calma. Non lo può dire con serenità, con bonomia emiliano romagnola. L'hanno presa assolutamente nel culo. Grazie. Allora fermi tutti, Meluzzi, l'Italia, Fa sentire Meluzzi, l'Italia, perché senti, non hai null'altro da dire, non hai niente da dire. Senti Meluzzi, siete stati sconfitti. Ho tante e ora cose da dire. Con i soldi dell'Europa chiudiamo la Zanzara. Questa è la questione. Recovery Fund, chiusa la Zanzara, Mosquito, close, Zula Claire, finish, stop. Close all the show. It's closed now. I speak with Ruth, Premier Ruth. It's closed. Zanzara party. Zanzara party is closed. Finish. Never again. Never again. No passeranno. Un paese che era stato destinato nella divisione internazionale del lavoro ad essere un grande campo profughi dell'invasione afro-islamica, o tutto al più una pizzeria a basso costo per tedeschi più o meno arricchiti, e ad essere un colossale gerontocomio, questo anche a causa di una crisi demografica drammatica degli italiani. Ma perché pensa che l'Italia debba essere ridotta così, signor Meluzzi? Signor Meluzzi, poi dice Trampa contro la grande finanza internazionale. Senti. Io credo che Trump sia stato eroico innanzitutto nel resistere e che rappresenti una scheggia impazzita rispetto ad un disegno che il Deep State planetario, quello che ha come riferimento la grande finanza internazionale, quella di Rothschild, quella di Rockefeller, ancora, quella di Soros, quella di Bill Gates, e che prevaleva appunto uno schema di questa natura. La manifattura concentrata in Cina a basso costo, e quindi la produzione in Cina di tutti i beni materiali, dunque, compresi quelli dell'elettronica, e quelli della chimica e quelli delle telecomunicazioni tipo 5G. Pensate alla crescita esponenziale della Huawei, alla quale... Finché non ci infilano nelle chiappe il vaccino, non toglieranno lo stato di emergenza. E le assicuro che, non avendo ottenuto i loro risultati in termini vaccinali, avendo già stanziato 180 milioni di euro per un vaccino dell'AstraZeneca, che si è dimostrato in Inghilterra non copre neanche la trasmissione del virus tra i macachi, ed essendo stati già investiti in questo vaccino 800 milioni di euro, gli altri pagati dalla Germania, dall'Olanda e dalla Francia, finché non riusciranno a ficcarci nelle chiappe questa roba qua, che non ha niente a che vedere secondo me con la protezione del vaccino, con la protezione del virus, non molleranno, questo è sicuro. E se qualora dovessero mollare, sguinzaglieranno un altro virus pericoloso, sguinzaglieranno un altro virus. Bill Gates 666, il marchio della perché si sono fissati su sta storia dell'apocalisse? Cioè, le altre cose uno potrebbe anche essere, no? Cioè, potrebbero anche avere, non dico, non sono vere, però potrebbero anche, no, risultare simpatiche. Ma poi c'è Satana 666, l'apocalisse. Ma quanto, ma che accordo hai fatto con lui? Che accordo hai fatto? Ma non c'è nessun accordo col Meluzzoni. Esiste un nuovo ordine mondiale con un vaccino come mezzo di controllo per le popolazioni. Assolutamente, anche perché poi c'è qualcuno che addirittura, come Bill Gates, propone un microchip infilato sotto cute che sia lo strumento di controllo fondamentale per il presente e il futuro dell'umanità. Dichiaratamente. Ma questo è pazzo. Quindi è più chiaro di così. Ma è il dove? 666 del libro dell'Apocalisse, proprio il marchio dell'anticristo, quel marchio senza il quale nessuno potrà vendere, potrà comprare, quindi potrà vivere. Il sogno del Deep State è proprio questo. Ma scusa, ma dove sta scritto che Bill Gates vuole metterci i microchip sotto ma il culo? Ma da nessuna parte, ma te lo dico io. Ma tu sei sicuro che non c'è scritto? Sei sicuro che non l'ha detto? Ma questo è un medico. Ma sei sicuro che non l'ha detto? Che questo lo invitano ancora? Ma tu sei, ma io. Però io, aspetta, guarda, la io... rivelazione è questa, che non è la rivelazione. Senti, senti. Ho ovvie e note simpatie per Giorgia Meloni, che considero il principale leader politico della destra di questo paese, anche se direi della favore, sovranità però, della nazione, però non l'aiuta anche così, lei, però. Povera, che può fare? Di parolacce a bombolo, che ho fatto il voto. Ma il voto l'avete fatto voi, mica ho fatto io. È come se uno smette di fumare e tu gli fumi in faccia, a bomboleno, lo devi fare, E che cazzo mi faccia a La Zanzara. Barisoni gay. Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid. Lanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. E in quale città? In quale città? Un quindicenne alla guida del bus? Milano, Bologna oppure... Camionisti di merda, andate a fanculo sempre a superarvi andando 80 all'ora rompendo il cazzo a chi va in automobile. Ma state incolonnati, ma che cazzo di tempo risparmiate superandovi quei 5 minuti che spenderete in un'area di sosta succhiandovelo a vicenda, pezzi di merda. Allora, la notizia del ragazzino che guidava un autobus a Napoli di 15 anni è stata poi smentita, pare che naturalmente sempre col condizionale, alla guida di quell'autobus che è rimasto un po' incastrato, cosa pazzesca, lo stesso ci fosse addirittura la moglie dell'autista, forse la moglie dell'autista, forse una tirocinante, c'è qualcuno che stava facendo un po' di scuola di guida di autobus a Napoli, signori miei, a Napoli. Intanto Franzoni è tornato, quel pazzo di Franzoni che è quel, quel fascistone, sì, che voleva organizzare la anzi ha organizzato una specie di marcia su Roma, ha fatto un partito con quanti sono con quelli che organizzano queste marce su Roma? Sì, quanti sì. sono? Ogni tanto... E tu ovviamente le intercetti tutti, come mai? È incazzato, ma è finita, no, ma è finita, è arrivato il recovery fund, è finita, c'è questo, la clausola anti-Zanzara. Ha pisciato anche davanti a Palazzo Chigi, davanti al portone di Palazzo Chigi, signor Franzoni, sì, Franzoni. Dice anche che sai che alla fine le tasse il 20 luglio non c'è stato il rinvio delle tasse, no? Senti, senti. No, certo. Ma certo un cazzo, certo. Buonasera a tutti, buonasera a questo breve video per ricordare al popolo italiano che e cosa? Soprattutto ai commercianti quanto siano dementi e coglioni. Va bene, questo volevo pure prendere i voti. Offendo proprio tutte le partite IVA, perché quando io ho lanciato l'allarme di quello che sarebbe successo, ossia che occorreva una rivolta delle partite IVA e quindi del settore privato per diciamo sancire la fine di questo governo di incapaci, oppressori e tiranni, nessuno mi ha aiutato. Siete dei coglioni, pagate, pagate, mantenete questo stato di merda che vi continua a succhiare il sangue. Andava fatta la rivoluzione prima, perché voi state allentando le maglie e come nel principio della rana bollita ci stanno cuocendo a fuoco lento. Voi siete chiamati tutti a pagare e che cominceranno con le cartelle esattoriali, vi perseguiteranno perché questo paese sta per fallire, non ci sono soldi nell'apparato pubblico, non ci sono i soldi per pagare i dipendenti pubblici. Come si fa a fare la rivoluzione in uno Stato? Si fa fallire lo Stato. Tu dici che io verrò processato per qualche cosa, caro Davide. Tu dici molto che io presto, verrò processato. Alla Corte Europea. Alla Corte Europea, certo. Ora ormai è finito il vostro tempo, è finito. Ora chiudiamo con i soldi dell'Europa, verrà chiusa la radio. Ma la radio, perché? No, questa ma trasmissione. Perché? Ma perché? E dovrai trovarti sei un altro fissato. Mestiere. Perché ma non sei è più fissato possibile. Stasera non, con questa roba. Non è più possibile. Sei peggio degli olandesi. Sei peggio di Ruth, tu. Perché hai contribuito a distruggere goccia senti, a goccia senti questo la maglia, paese. Senti la maglia, senti la maglia. Ormai, ormai rappresentante del centrodestra e della Lega a tutti gli effetti. Sì, la maglia. Perché dobbiamo riportarci in casa il virus. Sarò fascista, ma prima gli italiani, signora Maglie. Mamma non l'attacchi, però, ma, la signora Maglie. Non l'attacchi, ma come no? Ma non era socialista craxiana. Non l'attacchi, la era signora socialista Maglie. Craxiana. Era socialista era, craxiana. Era. E ora si ritrova sovranista. Basta. Noi stiamo riportando in casa un male che aveva, una malattia che avevamo circoscritto, indebolito, imparato ad affrontare pagando dei prezzi altissimi. Per quale ragione dobbiamo far entrare persone, spesso la anche maglie. Manovalanza criminale e mamma portarci mamma. I danni che ci portano. Mi dispiace, sono cattivista, sono fascista, dite quello che ma volete, che ma io dico in questo caso e cito una frase salviniana, che prima gli italiani. E come mai? E come mai? Però posso dire una cosa. Però c'è una cosa da dire, al di là della siete retorica. No, al di là di questo, uno Stato, scusami un attimo, no, però perdonami. Siamo bravissimi a bloccare gli italiani. Non giù, il lockdown l'abbiamo fatto bene, i poliziotti che arrivavano a bloccare, no, con gli elicotteri, la gente che era sulla spiaggia, i runner e tutto quanto. Non siamo capaci. Cioè, se ci mettiamo di punta riusciamo a bloccare un paese, come è successo. Ma cosa non riusciamo dire? A cosa fermare i clandestini? Non riusciamo nemmeno a tenerli dentro un centro immigrati perché escono? E se al di là delle cose, a me non me ne frega niente di questa storia del coronavirus. Cioè, non penso che il problema siano i clandestini. Però non riusciamo, allora, significa che non vogliamo farlo, perché altrimenti ce la faremo. Cioè, ma è un ragionamento molto semplice. Siamo riusciti a bloccare un paese e non riusciamo a bloccare i clandestini. E vabbè, d'accordo. Una cosa. Il poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter. Andiamo su qualcosa di più leggero, però, perché mi sono veramente rotti i coglioni, Davide. Mi sono veramente rotti i coglioni. È ritornata la De Mari a parlare di sesso, finalmente. È ritornata la De Mari con le sue solite ossessioni. Ma dove? Nei suoi canali, ormai tutto quanto. Nei dove? Non è che ormai tutti possono. tutti dicono qualsiasi cosa su qualsiasi social, cioè uno vale uno, veramente uno vale uno. Non esiste più naturalmente la televisione. Esatto. Tutto disarticolato, tutti fanno la loro televisione e la Rai ancora con Renzi, dai, con Don Matteo, non è possibile, morto. L'erotismo anale tragico, l'erotismo anale. Ancora Telese, c'è in televisione, no, dai, non è possibile. Telese, dai, ancora con Telese, dai. C'è anche Parenzo accanto, scusi. Dai, che c'è Telese, ancora col pizzetto. A cosa serve, dai? Ormai c'è Netflix, grasso. Ma questo non lo so, adesso naturalmente non lo... Però dai, ancora, ma cosa vuol dire, dai? L'erotismo anale è tragico. L'ano è l'ultima porzione del tubo digerente, non è stato creato, comunque non è strutturato per essere usato a scopo ricreativo. Ancora poi vi manderò in onda tutto, ancora scopo con questa ricreativo. Roba. Lo scopo, ma cosa vuol dire scopo il culo ricreativo? Ogni tanto allo scopo ricreativo. Non sarà stato creato per questo, certamente, perché non è che uno crea il culo per lo scopo ricreativo. A me queste cose mi fanno impazzire. Carlo da Latina, vai, iniziamo. Carlo, dimmi. Ciao Cruciani, buonasera. Dimmi Carlo, dimmi, che c'è? Senti, io volevo parlare, sono un gallito che vado sempre a prostitute. Ah, sì, vai sempre a prostitute. Sei incallito, sì, e vai sempre a prostitute, dunque? Poi che... volevo dire un'altra cosa, tutte e due, no? Dimmi. Ma adesso se chiude la zanzara, andate a fare i finocchi tutte e due, no? Andate o a Roma sul raccordo lì... alla casellina qualche parte. Sì, ma perché dovremmo andare a Milano? Ma scusi, ma perché per dovrei andare motivo? A puttane? Ma vai tu a prostitute, io non vado a fare il prostituto, al limite vai tu. No, tu te prostituisci tu, perché tu parendo tutte e due. Ma questo noi è creativo. Facciamo la colletta tutti gli autisti, no? Tutti i camionisti, dici, dei camionisti. Facciamo la colletta tutti i camionisti. Tu sei la vergogna dei camionisti, posso dirti una cosa? Tu sei la vergogna dei camionisti. Io non rompo i coglioni tutte le fregnacce che dicevi. Tu sei la vergogna dei camionisti. Tu e tuo fratello, che se non ricordo male siete due fratelli fascisti. Tu e tuo fratello, sì, lui credo, lui è il fratello. Io sono fascista, io abito a Latina, c'ho una casa dei Mussolini vecchia, lo sanno tutti gli autisti. Tu sei la vergogna, diglielo che è la vergogna dei camionisti, diglielo David, diglielo. Ma cosa vuol dire? Lei ha la casa di Mussolini a Latina, cosa vuol dire la casa di Mussolini? C'è un potere vecchio di Mussolini, cioè. Vabbè, chi se ne frega. Ma non l'hanno buttato giù ancora? Ma perché? Non si butta nulla. Roberto da Venezia, sentiamo Roberto, vai Roberto, dimmi. Mi sentite? Sì, dimmi Roberto, dimmi. Allora, Parenzo, doppio giochista, doppia faccia. Allora, io ti voglio tanto bene, però che senso sì, ha? Io no. Che tu io parli no, di no. sesso, anale, sì. No, non parlo. No, mai. Fa una trasmissione allora, dove ci parla di queste cose. Allora? E dopo lo vedi alla 7 col cerone, con la cravattina. Vabbè, il cerone no. Cravatta la porto sempre. Fermo lì. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Pronto? Allora, vuoi provare tantissimo il sesso anale, ma hai tanta paura? Sì, mi dica. La terminazione nervosa che è presente dentro l'ano è evidente che procura un piacere talvolta superiore, secondo alcuni. Per cui, ragazzi, ma dobbiamo fare le prossime puntate sulla differenza tra la penetrazione anale e quella vaginale? Dimmelo subito. Perché mi stai spronando, mi stai suggerendo. Più mi dici di no, dimmi di sì. Dimmi di sì che non lo faccio. Dimmi di sì. No, grazie. Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese, ma è meglio il mojito. Eppure il liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito. Si chiedono questo da dove uscito, dal terzo millennio col terzo dito. Parlare di eccesso non è eccessivo, sono il fuori programma televisivo. Non ho i superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il signor Parenzo. No, grazie. no, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. Todo cambia. Grazie mille per avermi dato spazio nella vostra trasmissione, ho ricevuto un sacco di richieste di conoscenza, sì. E una avventura veramente incredibile. Beh. Dove un cuckold guidava la macchina mentre io gli scopavo la moglie. Beh. Dietro e lui girava per le strade di Verona. Grazie mille dal vostro Gentleman 73. Oh, comunque Chirico, sì, Chirico, come cazzo si chiama quell'altro? Quirico, il camionista, quello romano, quello che non sa parlare in italiano. Cioè, capisce molto meglio la Castelli di quanto possa fa Porro. Cioè, ma proprio l'italiano, perché comunque la Castelli si è espressa in italiano. E ma poi ha studiato, è laureato. Cioè, è importante sta cosa, no? È per sapere. Luciani, stavo pensando alla candidatura da fidanzato della Martani. Ero arrivato in fondo, fino all'ultimo punto. Poi il cane sul letto. Dormire con il cane sul letto. Che schifo. Che schifo, ma vaffanculo. Ma alla fine poi sai, cioè, io non ci penso nemmeno lontanamente, né cani né gatti, ma eccetera, eccetera. Ma per carità, via Raus. Però alla fine, se uno no, è preso, Raus, no, se uno gli piace il cane accanto, sai quante volte uno ha trombato col gatto, sì, accanto, cane col accanto, cane accanto. D'accordo, ma a me, una marea, di a me una marea di volte è successo di avere una ragazza, una fidanzata, voglio. Non una fidanzata, scusa, un amante occasionale, una che mi sono fatto, che aveva i cani o i gatti in casa, accanto lì, io guardavo ogni tanto, sei sicura che non salta sul letto, oppure saltava via a calci nel sedere. Mi è successo più volte. Però per una volta può andare bene. Una volta può andare bene. Gatti, no, quando mi è capitato anch'io delle ragazze che ormai dicevo, 20 chiudi, 30 anni fa, ormai 20 chiudi, 30 anni fa. Chiudi, quando ma ancora forse anche 50. Quando ancora 50 eri in attività, 20 30 anni fa, sì, ho capito? 23, ma insomma, sì, adesso, 25 comunque, anni fa, chiudere il gatto in camera, cioè non nella stanza dove sono io, not in my room, come dice il premier Root, not in my room, chiuso in una stanza e via. Comunque io ritornerei sulla questione della De Mari, cioè sulla questione del culo come scopo ricreativo. Allora, amica De Mari, tu sei anche una grande combattente, però devi capire che non è che il signore, posto che sia stato il signore, ma tu ci credi naturalmente, a creare uomo e donna, non è che ha deciso che quel foro sia solamente destinato a certe cose. Lo ha fatto, punto e basta. Dunque, se lo ha fatto anche disponibile ad uso ricreativo. Io utilizzo le tue parole, vedi, non vado su quelle che tu chiameresti volgarità, ma continua dicendo che gli ex gay, essendoci degli ex gay, allora significa che la situazione è irreversibile. No, non significa questo, sì, perché qualcuno a un certo punto si è stancato di prenderlo nel culo e vuole ritornare alla cosa, no? Vuole ritornare alla sua azienda originaria, magari, non lo so, a quello che gli piaceva prima, ma non ne farei una questione. Siccome esistono gli ex gay, allora la situazione è irreversibile. Bah. È stato dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non c'è alcuna determinante genetica. Non solo, ma dimostrano tutti gli ex gay che si tratta di una situazione irreversibile. Perché io ho avuto i processi? Perché io sto parlando di questo, del fatto che la cosiddetta omosessualità non è genetica, è gravata da un tasso di patologie sconvolgenti e soprattutto è reversibile. L'omosessualità è irreversibile e nasce da patologie. Ora ti dico una cosa: se è stata processata solo per questo, è una follia. Mamma mia. È libera di dirlo. È libera di dirlo. Follia. Non deve andare al processo. Ma quanti milioni di persone offende? Ma quale la sensibilità offende? Di milioni smettila, di persone smettila, offende questa pseudo dottoressa. Offende smettila. Milioni di persone. Peccato che non ho un capezzone da farti sentire oggi. Peccato che non ho un capezzone da farti sentire. L'ho visto ieri, tornato a casa ieri sera a Prima Repubblica dal signor la Quarta Repubblica, scusami, sì, dal signor Porro. Sì. L'ho visto in un confronto con Cerasa. Sì. E la prima cosa che ha detto è: voglio dire soltanto tre cose, davvero, soltanto tre cose. Sì. A quel punto io ho preso il telecomando e l'ho tirato contro la televisione, l'ho spaccata completamente. Toni dalla provincia di Legnano, vai, Toni, provincia di Legnano. Uno. Dimmi, Toni. Toni, mi senti? Toni? Oh, Toni, ciao. Dimmi, dimmi. Allora, volevo raccontare un fatto che mi è successo qualche notte fa. Stavo tornando a casa in macchina mentre ascoltavo il podcast della Zanzara. Sì. Per strada ho visto una ragazza giovane, sui 20 anni, molto carina, belle tette, bel culo, vestita normalissimo, non era vestita come una zoccola. Sì. E io l'ho guardata perché era molto carina, lei mi ha guardato, mi ferma, fa: ma scusa, mi puoi dare un passaggio? Devo andare in farmacia. Sì. Ho detto: cazzo, a quest'ora di notte una ragazza da sola, in giro ci sono solo i balordi. Allora l'ho caricata in macchina, le dico: ma cosa è successo? Devo andare in farmacia. Scusami, parentesi, normalmente tu vai a prostitute, cioè sei uno che va a prostitute? No, sono andato solo una volta e quasi sono stato arrestato, quindi da allora non ci sono più andato. E perché l'hai caricata allora? Perché ho visto questa ragazza da sola e ho detto: le do un passaggio. E poi ti dico la verità, appena avuto un figlio e non scopo da un sacco di tempo, appena vedo una ragazza non capisco più una minchia. Quindi vabbè, siamo andati verso la farmacia, mi fermo, dico: ok, ti lascio. Lei mi dice: senti, ma se mi dai 10 euro possiamo fare qualcosa insieme. Io la guardo e dico: 10 euro? Ma che cazzo, dove siamo arrivati per 10 euro una ragazza che mi fa un pompino? Io in quel momento... Come si fa a parlare di queste cose con questa leggerezza? Ti sta dicendo che non ce l'ha fatta. Non ce l'ho fatta. Appunto, ti sta dicendo che non ce l'ha fatta. Appunto, dico, come si fa anche solo a pensare di potercela fare, però? Questa è la cosa. Ma non l'ha pensato. Non l'ha pensato. Era tentato da quella ragazza. Il fatto di farsi tentare. Ma perché lo stai condannando? Non ci ha dato. Ti rende un ominide proprio. Che hai fatto ominide alla fine, Toni? Che hai fatto? Ma quale ominide? Io ho visto questa ragazza qua in difesa, molto carina, gli ho dato un passaggio e poi alla fine non me la sono sentita, gli ho dato 5 euro e le ho detto: adesso dove ti lascio? Fa: no, lasciami per casa perché devo cercare un altro che a cui ispirare dei soldi e farmi una chiavata. Ti dico la verità, gli ho detto: dammi il numero, magari domani ti chiamo se vuoi ti aiuto, però non ce l'ho fatta a richiamarla. In realtà poi sono passato di nuovo... Ma probabilmente era una tossica, non lo so, cioè credo. Secondo me era una tossica o era stata menata dal marito triste, perché era un po' sbattuto. Che storia triste. Vabbè, ciao Toni, ciao. Ma che triste il fatto che lui cercasse l'amore con questa, questo è molto triste, molto brutto. Molto brutto, molto. Enzo da Teramo, vai Enzo, dimmi Enzo. Dimmi. Oh, Crucia, buonasera, per parlare con te, mamma mia, come... Dimmi Enzo, vai. Sono un trasportatore, mi allaccio a quell'imbecille del ciclista dell'altra sera, che ha detto che è meglio che lavoriamo di notte, che non serviamo a un cazzo. Ma quello è un coglione, Quello è un coglione, quello è meglio che tali. E Parenzo era d'accordo con lui, contro i camionisti. Non contro i camionisti. Parenzo è un piccolo sterco di caccola, di cavallo, non è niente di che. Buonasera, grazie per aver chiamato, benvenuto. Sì, beh, non ti preoccupare, che tu benvenuto. Una categoria proprio che ti benvenuto. Benvenuto, benvenuto, grazie per il suo contributo. Sì. Quello che ti volevo dire, caro Giuseppe, vedi, sono amici, vedi, caro Giuseppe. Che vanno in giro in vacanza a sbatterci i coglioni in autostrada, non capisco l'importanza del lavoro che svolgiamo noi. Come Parenzo, categoria Parenzo pure non lo capisce, lui ogni tanto prende l'autostrada per Pescara o per Siena, fa il dito medio ai camionisti, si mette lì e rallenta i camionisti apposta lo fa apposta, e così è Parenzo, lo fa apposta. Ma poi li vedi spiaccicati in autostrada, capito? Sì, signorotti che vanno in vacanza ammazzano moglie e figli. Ma perché? Leggiti un po' di statistiche. Beh, adesso, guarda gli incidenti. Scusami, Davide, toccati i coglioni un po'. Questo è un criminale. No, Parenzo, a pelle si dovrebbe toccare adesso. sono dovuti agli automobilisti che non sanno circolare in autostrada, non ai camionisti. Ma i ciclisti, che cosa hai da dire tu sui ciclisti, per esempio? Sui ciclisti. I ciclisti, allora, rispetto la categoria, ma loro devono rispettare non solo noi, ma anche le automobili. Loro sono incivili, passano con il rosso, non rispettano gli stop, non fanno le precedenze, prendono le rotonde contro mano, perché loro si pensano, capito, di essere i padroni. Enzo, io, caro Davide, rappresenta la categoria dei camionisti che lavorano, gente ma che si spacca la schiena, follia. No, tu, la no, follia tu. Rappresenta la follia. Ma che follia? Perché follia? Ti ha dato del pazzo, Enzo, ti sta dando del pazzo, dice follia, ma rappresenta sì, la follia. Ma è uno psicotico, dai, è uno psicotico. Ah, io sono uno psicotico, beato te, caro mio. A te stare seduto lì ti fa comodo, ti rendi soldi fa. Vieni a fare il lavoro che vai a fare, vai a fare il camionista, vai a fare l'autista dei tiri. Una notte sola ti porto come ogni volta che chiudi gli occhi, quattro schiaffi sulla faccia, poi vedi come ti guadagni la pagnotta a fine mese. Portati Cruciani a guidare il camion. Portati Cruciani a guidare il camion. Vediamo se viene. Portati Cruciani a guidare il camion. Certo che vengo. Ma figurati se viene, che c'ha la villa in Umbria con la piscina abusiva. Ma quale viene a guidare il camion? Che l'ultima c'ha pure l'autista di famiglia con la limousine che lo porta in giro dappertutto. Vergognoso. Fermi tutti, fermo, ciao Enzo. Fermi tutti. Ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti Crucia, si na chiavaca Crucia, si ocesse Napola Cruciani, fai proprio schifo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Che squallore d'uomo che sei. Alla festa lì con Ciccio Formaggio, il puttaniere che va cinese. Mamma mia, che schifo. Ma quando ti guardi allo specchio non provi un senso di repulsione. Mamma mia, che schifo. Cruciani, non fare il grande, sei un servo di merda, servo. Cruciani, ahantò culo e suca, salute a Catanzaro, ahantò culo. Cruciani, senti questo silenzio, è quello che ti accompagnerà da venerdì in poi. Quando tu sarai solo nella tua cameretta, niente più squirting, niente più puttane, niente più cazzotti, niente più parolacce, niente, solo il silenzio. Sì, io vedo molto negativo. E qui è commovente, Filomena. E Simona. Simona. Al solo pensiero che quella di venerdì potrebbe essere l'ultima puntata della Zanzara, io ho pianto. Ho pianto fortissimo. È il più grande Truman Show della storia, svanito così, debotto, senza senso. E vabbè. Mi raccomando, condividete, perché questa è un'opportunità di lavoro, esatto, molto importante. Condividete. Ciao ragazzi, ma è bellissimo. Comunque farò un casino a Montecitorio a breve. Non vi dico nulla, è tutto così. Poi lo vedrete. Dabbi! Ma Allora David, ti sottopongo una frase, una frase di Barbara Alberti. Che trasmissione, no, però che trasmissione. Ma tanto, che tanto hai fatto intervenire l'Europa. Hai fatto intervenire l'Europa. Certo, hai fatto intervenire certo, l'Europa. Recovery Fund. Certo, ma che trasmissione è? Ma io ma che trasmissione è? Ma me lo dico anche a me stesso, ho colpe al 50% perché da 10 anni contribuisco a distruggere questo paese. Forse anche di più. No, forse da 10 anni per quanto riguarda questo contenitore. I collaborazionisti sì. hanno no, sempre ma maggiori che trasmissione colpe. È? La domanda finale di quest'anno è: ma che trasmissione è? Che trasmissione allora, è? Allora, frase decisiva della signora Barbara Alberti. Signora Barbara Alberti. Cosa contraddistingue gli uomini? Il cazzo. Questo è il punto fondamentale. È quello che li rende così rigidi e affezionati al potere e li espone continuamente. Per noi è diverso, sostiene la signora Alberti. Il piacere è un nostro segreto, non veniamo giudicate su come facciamo l'amore. A parte che anche su questo si potrebbe anche c'è qualcosa che si potrebbe dire, perché non è vero. C'è chi scopa bene, chi ci scopa male, anche tra le donne. Cioè, vengono giudicate anche per questo. Comunque adesso non approfondiamo. Gli uomini invece sì, vengono giudicati e questo è terribile. Anche loro dovrebbero emanciparsi. Non è sbagliata come cosa questa qua. Effettivamente noi abbiamo il problema del cazzo, del funzionamento del cazzo. Ed è un problema da cui forse, dice Alberti, ci dobbiamo emancipare. Ed è terribile per noi. Una donna, in fin dei conti, è estranea a questo tipo di giudizio, no? È estranea. Senti, tu che cosa faresti a un albergo che espone senza problemi, succede in Valcamonica, come documentato sui siti dell'internet, cimeli fascisti? Cioè, pare che il sindaco sia proprietario di questo albergo, il sindaco di questo paese, Temù, in Valcamonica, espongono bottiglie di vino nero per i camerati, busti del duce, il motto "molti nemici, molto onore", scritto lì all'ingresso, calendari, altre fotografie di Sua Eccellenza Benito Mussolini, immagini del ventennio. Cosa bisognerebbe fare per te con questo albergo? Dammi la tua opinione. Guarda, dimmi che... guarda, caro Giuseppe Cruciani. Sì, dimmi, caro Giuseppe dimmi, Cruciani, dimmi, guarda. Dimmi, guarda, caro Giuseppe. Cosa bisognerebbe fare? Dimmi. Allora, guarda. Mica, guarda. Non dice nulla. Io voglio dirti guarda. Sì, guarda. Sta pensando caro, a cosa dire. Sta guarda. Sì, guarda. Stai pensando caro a cosa dire. Giuseppe Cruciani, guarda. Dimmi. Allora, cosa bisognerebbe fare? Non hai detto un cazzo fino adesso, non hai detto nulla. Ho detto guarda, perché creo la suspense, tra poco dirò guarda, guarda caro cioè, Giuseppe un albergo Cruciani, che guarda, espone, guarda. Un albergo esercizio ricapitoliamo pubblico un attimo, che espone cimeli del fascismo. Abbiamo da una parte un esercizio pubblico, sì. Quindi un esercizio pubblico, no, come c'è, esercizio che pubblico. Espone dei vessilli, è sì, corretto? Vessi, assolutamente, del regime, assolutamente. Del fascismo, del molto, molto, molto bene. Sì. Del ventennio fascista. Allora, io primariamente farei questo, primariamente manderei immediatamente lì una più volanti della polizia, farei strappare i vessilli e in contemporanea manderei un'ambulanza con la sirena accesa e bloccherei il titolare del suddetto albergo, lo carico una camicia di forza, lo caricherei su una macchina, su queste ambulanze molto dotate, lo legherei a una lettiga e lo porterei in una struttura adeguata a risolvere problemi psichici. Però, questo scusami, diciamo uno non può essere libero, capito, uno non questo può essere libero di esporre in un albergo dei cimeli fascisti. No, il busto del duce. A casaccia sua. Ma non ho capito, in un albergo non ci può essere un busto del signor Benito a casaccia sua può mettere quello che gli pare. No! Ma senti, io adesso sì, ma deciditi, coi sì soldi no? del recovery sì fund, no? No, coi soldi del recovery fund faccio fare subito, faccio dare i soldi alla Confindustria, voglio indennizzare la Confindustria e faccio chiudere questa trasmissione. Sentiamo Vissani ieri sera che combatteva contro uno, non so come si chiama, Pedullà sui ristoranti. Ah no, Pedullà me l'ha detto il direttore della notizia, signor Pedullà, oggi mi ha chiamato, sì, oggi mi ha chiamato Vissani e mi ha detto: hai visto ieri con Pellà che ho fatto? Dico, con chi? Non ho visto con Pullà. Dico, come Pullà? Con Pullà, hai visto che ha fatto? Ho detto, ma come Pullà? Con quello là. Con quello là. Pedullà. Vabbè, ma fa culo, non so come si chiama. Dico, Pedullà, Pullà. I signori al governo prendono gli stipendi bene, ben profumati. Giusto. Noi non li prendiamo. e lei per cortesia vada a fare in giro per l'Italia, poi si renderà conto. Guarda, lei non io gira, ci vado in giro per perché l'Italia, se dovesse stanno, girare ci dovrebbe solamente vergognare ci di quello che sta dicendo. Ma si vergogni di fare discorsi di che prendono gli stipendi. Legga il gambero rosso di oggi, visto che legga il gambero rosso di oggi, che spiega che cosa ha detto il ministro Castelli e i problemi del suo settore, che persone beneficiate come lei continuano a massacrare. Lei è un beneficiato, lei è un beneficiato, lei è un beneficiato, lei è un beneficiato. Si vergogni lei, si vergogni lei, si vergogni. Fermo! No, scusami, perché no? Perché da voi questa cosa non accade? Scusa, perché da voi non accade che c'è Bissani con, no, con le vene so, fuori dal collo? Non lo so, domandatelo, attacca. Domandatelo, non lo so, non lo so, non lo so, domandatelo, domandatelo. Se lei mi parla di gambe rosso, che è la guida? Non so, perché io non so, io non guardo queste cose. Vada, vada, glielo dico io allora, informo io. Www gambero rosso e spiega cosa ha detto il ministro. Gli ambulanti dove stanno vivendo? Sotto un ponte! Lei ci vive sotto un ponte? Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Cosa c'entra? In Africa stanno peggio di noi. È questa la discussione seria? È questa la discussione seria che vogliamo fare? Con persone come lei non si va lontano. Perché non vai in Africa lei? E invece con la Castelli abbiamo ma la ci perde con la Castelli qualcosa lì? Forse chi abbiamo fatto ma si dovrebbe vergognare buona. È sempre bella la cosa, si dovrebbe vergognare, no? Molto bene. Se vergogna. Si può isolare quella il buono. Vergogna, però anche quello funziona molto, no? Sempre, il vergogna sempre, funziona sempre. Funziona Paolo sempre. Da Catania, vai Paolo. C'è un capezzone per piacere oggi, un capezzone, ci sarà un capezzone. Poco, no, poca roba, sì, poca. Allora fammi sentire un capezzone di ieri, no, dai, capezzone, tanto dice sempre solite cose, capezzone. Dai, Paolo, dimmi, Paolo. Cruciani, io ieri guardavo la trasmissione e io mi sono ricordato che tu una volta eri un radicale che combattevi al fianco di Pannella, di gente di questo calibro, e io vedevo un altro giorno la destra italiana, che cosa fa? Cosa è, dov'è che, di che chi è che va su Rete 4? Di cosa parli? Abbiamo Meluzzi, Capezzone, Garbi, ma che vuoi da me? Io rispondo per me stesso, per le libertà, rivolgiti, che vergogna, ora tu parli della libertà di Capezzone, di Sgarbi, certo, di libertà pure guidare, per loro, certo, libertà anche per loro, ma non c'è dubbio. Qual è la differenza? Tu non sei per la loro libertà, tu sei, fai loro un endorsement, tu sei ma a loro vai favore. A fare in culo. Tu Andrea dalla provincia di Pesaro, questo è un povero imbecille. Andrea dalla provincia di Pesaro, vai, dimmi. Eccolo, aspetta che tolgo il via voce. Togli via voce, bravo, sì, dimmi. Ok, l'ho tolto, ciao. Dimmi. Senti, io vorrei... Però io che cosa vorrei? No, ma il rimbombo è tuo, io sento benissimo, io sento perfettamente. Allora, se senti benissimo, proverò a dimmi, non so così, dove cazzo sei collegato, dimmi. Senti Giuseppe, volevo parlare di quel fatto, non posso parlare, scusate se mi richiamate, cioè rimbombo. Vai a fare il culo, Alberto da Pesaro, vai, Alberto, dimmi. Pronto? Dimmi Alberto, dimmi. Allora, tolgo la mia voce tutto qua. Ragazzi, ma come siamo ridotti con sto via voce? Dai Alberto, dimmi. Alberto, eccomi qua. Forza, qua. Dimmi, dai. Allora, buonasera a tutti. Dai, non ce ne frega un cazzo del buonasera, ancora dai, questo buonasera, porca puttana. Volevo dire che io sono diversi anni che vi ascolto e ho sempre avuto un'idea su Parenzo. Diciamo, dal punto di vista sessuale, l'ho sempre visto molto bigotto, molto un po' il classico alla missionaria, non solo con la moglie. Dunque? Ok. Invece, poi, buonasera e grazie per aver chiamato. Grazie, buonasera. Prego, salve, per adesso. Grazie per aver chiamato e per queste considerazioni. Grazie. Dunque, i vostri ospiti transessuali, prostitute, soprattutto pornostar, ho notato che tutte queste signore hanno sempre avuto un occhio diverso su Parenzo. Cioè, secondo me lo vedono in un modo che noi persone normali facciamo fatica a cioè vedono la parte perversa di Parenzo, dici. Bravo, si accorgono del porco che è in lui, diciamo, del maniaco che è in lui, del perverso sessuale che è lui. Mi hai rubato la parola di bocca, perché ti devo dire Alberto, che io... guarda, potresti non avere tutti i torti, solo che questa parte sua così nascosta e si fa fatica a tirarlo fuori. Questo è il punto fondamentale. Però, perché c'è e io lo so che c'è una parte maiala, la parte maiala parenziana è ben nascosta, è tenuta lì, è tenuta, ogni tanto viene fuori. Posso dire una cosa? Dimmi Alberto, di quando io ho, in questi giorni mi è capitato di vederlo in televisione, non perché guardo il suo programma, perché ovviamente a me di politica non me ne frega un cazzo, giusto, però l'ho visto in faccia e l'ho fermato, forse perché è un po' truccato, un po'. Hai visto il porco? Hai visto il porco? È un porco. Come si permette? Sono certo che è un porco. Ma lei come si permette? Ma io dico, ma uno, sono però certo. Scusate, ma sono certo un cazzo. Ma uno può telefonare? Ma io mi voglio dire una cosa. Ma visto in faccia, ha visto che sei un porco. Dovrebbe farti piacere una cosa di questo tipo. No, non ti fa piacere. No, ti fa piacere. Ma uno può telefonare a una radio, stare in attesa per e dire che una un minchiata, sì. Esatto, a uno dei conduttori. Ma io voglio dire, ma solo qua può succedere. Ciao Alberto. No, ma da ciao cazzo. Come grazie, ciao, come fosse ciao. Normale, ciao, ciao, grazie, come grazie. Altra chiamata, nazista, sì, buonasera. Ma dai. Sessualmente ambiguo, è ambiguo. Allora ragazzi, abbiamo qui, ieri sera era in collegamento alla fine della trasmissione, un cacciatore di cervi che si chiama Kevin dalla provincia di Belluno. Eccoci qui, Kevin. Ciao Cruciani. Allora dimmi innanzitutto, velocemente, l'adrenalina che provi quando abbatti un cervo col tuo fucile. Che cosa provi? Qual è l'adrenalina? È il top assoluto. Tu uccidi cervi e camosci pure, se non sbaglio? Sì, anche caprioli, ungulati principalmente. Ungulati, sì. Ma il cervo, che emozione è il cervo? Dato che c'è tutto un casino lì da voi in provincia di Belluno, tu sarai uno di quelli che probabilmente abbatterà questi oltre 3.000 cervi che la provincia ha detto di abbattere. Sarai uno di quelli che li abbatterà. Ma qual è l'emozione particolare che si prova ad abbattere a fucilate un cervo? Non si può spiegare, te l'ho già detto ieri, dovresti provarlo, ma... È meglio o peggio di una scopata, Kevin? Dipende con chi scopi. Dipende, diciamo, con chi scopi, però si può paragonare, si può avvicinare come emozione, come adrenalina, come botta di vita, o no? Sì, buttala là, sì. Sì, molto bene. Mocavero, ci sei? Paolo Mocavero, 100% animalisti, siamo qui. Paolo, ci sei? Paolo, non c'è Paolo, fermo là, fermo che arriva. Adesso arriva Kevin. Io non ho capito, tu preferisci abbattere cervi oppure che aprioli? Spiegami. Ma camosci è la caccia migliore. Camosci è la caccia migliore. Quanto bisogna aspettare per abbattere un i camosci? Sai quelli delle favole, i camosci. Un camoscio è molto diverso la caccia rispetto al cervo. Vai più a cercarlo tu, invece il cervo generalmente lo aspetti. Ah, il cervo lo aspetti, mentre il camoscio lo devi cercare tu. Mocavero c'è, Paolo? Sono qua, finalmente. Scusami, ma non vi sentivo proprio prima. C'era un problema probabilmente vostro. Ma tecnico. Che cazzo ne so, probabilmente sì, come al solito. Probabile. Ma no. I cacciatori probabilmente sono loro che portano la spia. No, tanto sarà tutto risolto tra un po'. Questi problemi tra un po' non ci saranno più, perché finalmente si chiude. Senti, ma hai sentito questo cacciatore che cosa dice? Cioè, purtroppo no, però ti dirò che quando parlo un cacciatore io me ne sbatto le palle. Cioè, sono talmente pezzi di merda, uomini di merda, che io sinceramente quello che dicono mi fa sorridere. No, però lui dice che si prova... Se tu mi dici cosa ha detto, magari allora facciamo un piccolo riassunto, perché non si sentiva una stramazza di nulla. Allora, Kevin ha detto che prova una grande emozione simile ad una scopata a cacciare un cervo, giusto Kevin o sbaglio? Certo. Lui sarà uno di quelli incaricati dalla provincia di Belluno di abbattere i cervi, Quanti anni ha questo Kevin, se posso saperlo? Kevin, quanti anni hai? 26. Ti senti un pezzo di merda? Kevin, ti senti un pezzo di merda? Ma Kevin? Non più di lui, no. Allora, perché dovrebbe essere un pezzo di merda un assassino? Se tu è a 26 anni, altro che scopate, tu ti meni l'uccello dalla mattina alla sera, testa di cazzo di un cacciatore. Ma perché, di merda? Perché la conversazione? Cosa fai tu? Ti meni l'uccello dalla mattina alla sera, perché a 26 anni, se ti fai una sega sparando un cervo, tu sei una testa di cazzo e spero che tu faccia una fine di merda. Chissà che ti scambiano per un cervo e che crepi di sofferenze atroci. Questo è brutto. E prega la Madonna. Ma io non prego nessuno. Perché prego nessuno. Te lo metto su per il culo, testa di cazzo. Aspetta, di un cazzatore. Fermo là. È brutto però, perché è degenerata la conversazione. Aspetta, Paolo, fermo un attimo. Allora, Kevin, rispondi a Mocavero che nei confronti dei cacciatori ha questo tipo di atteggiamento. Per carità. Brutta conversazione. brutta. Sì, lo sento, è diplomatico, sì. No, non è diplomatico, è uno che va... Spacco il culo se ti vedo testa di cazzo. Ma perché? Non ho capito. Ma perché? Ma è una brutta conversazione. Scusami, ma Kevin, Kevin è uno che semplicemente, semplicemente fa quello che la legge gli consente di fare. Non è che sta facendo una cosa illegale. Esatto. Diglielo in faccia. Ti senti un pezzo di merda? No. Hai paura, ma di hai paura di Mocavero? Cioè, probabilmente sarà un pezzo. Eh? Non ho capito. Non ho capito che hai detto, Paolo, non ho capito. Ho detto che probabilmente sto Kevin di merda sarà anche un bel sesso di merda, hai capito il discorso? Perché se ha 26 anni va a scopare, questo è uno sfigato del cazzo, appunto. Ma non capito, ma uno può a 80 anni. Ma uno può anche scopare e cacciare allo stesso tempo. Ma dove? Ma gli MVP, le file delle casse, il detta mai che hanno a seguito. Perché cosa sono? No? Che sono impotenti cacciatori? Ma cosa sono impotenti cacciatori? Ma questi qua mettono i selfie con gli animali morti invece di mettersi i selfie con le belle fighe. Questi fanno i selfie con gli animali morti. Ma che cazzo dici? Hai mai visto un animale morto? Ma che cazzo stai sparando? Ma tu sei uno sfigato. Tu sei uno sfigato. Sei un nome che di merda, tra l'altro. Di te. Io dico una cosa, lui è molto gambiano. Che come te non c'è nessuno, perché a 26 anni io ti amavo come un riccio, tu invece sei uno sfigato di merda. Questa è la differenza tra me e te. E ti amo ancora come un riccio, comunque, se ti può interessare questa cosa. È bella e figa. Lo prendevi, prendevi un sacco a 26 anni. Però scusa un attimo, non ho capito cosa hai detto. Kevin, cosa hai detto? Scusa? Kevin. Lo prendeva un sacco a 26 anni. Sì, può darsi, non anche, capito, ma questo non sa... cazzo parla questo? No, parla dice che merda, lo prendevi un sacco a 26 anni, questo è la cosa. Pensa te, anche omofobia, eccoli qua, quello di cazzatori, eccolo qua, omofobo anche sto testa di cazzo. No, io sono iniziata di due, caro. Pure omofobo sei. Allora io prega la Madonna che non ti becco sui bordi, te lo fico sopra il culo, dopo vediamo chi lo prende. Ma non puoi aggredire i cacciatori, non puoi, Paolo, non puoi aggredire i cacciatori, non li puoi aggredire. Io posso parlare con un circense, ci ho anche parlato con un circense. Ovviamente i nemici restano tali. Io ci posso parlare con tutti. I cacciatori sono uomini di merda. Quando ma muoiono, perché? Io pisco sulle loro tombe. Sono degli schifosi. Ma okay? Scusami un attimo. Probabilmente morirai prima di me, vero? Io sulla tua. Ma sai? Vai a fanculo, coglione, 26 anni, sei sfigato con la merda. Ma allora ho capito, ma che c'entra? Ma cosa c'entra il fatto che è sfigato a 26 anni? È appassionato di caccia. È appassionato. Ma è appassionato di. Ma è un figlio di Troia. Ma cosa vuol dire? È semplice. Voglio dire, possiamo trovare un punto di incontro. Possiamo tipo uomo di merda. Aspetta, fermo, ma l'hai già detto. Fermo, aspetta un attimo, Parenzo, qual è il punto? Non basta mai. Qual è il punto? E in più è uno di quelli, Mocavero, che andrà ad abbattere questi 3000 passa cervi. Ma dimmi dove va che lo vado a trovare, io gli ho fatto super il culo. Dov'è che sei? Kevin, incontratevi, Kevin, dov'è che sei? Aspetta, fermo. Incontrare questo qua, ma fammi un piacere. No, infatti non ti conviene incontrarmi, dai retta allo zio, non ti conviene, perché ti spicco super il culo e tutti. No, dai, ma però io qua, penso che non immagini. Ci sia un clima costruttivo nella discussione. Cioè non capisco perché in questa... non ci può essere ho capito, ma in questa trasmissione si infuoca subito il dibattito, non è possibile ragionare pacatamente. Davide, con i cacciatori non c'è dialogo, ti ripeto, io posso avere un dialogo con i circensi, che cazzo ne so, con qualsiasi altra persona... Con un cacciatore no, perché uno che ammazza un essere indifeso è un uomo. Ma cosa c'entra? Ma la carne dice dallo Stato, delegato dallo Stato. Delegato dallo Stato, vedi come risponde in maniera così. Delegato ormai, dallo Stato, delegato dallo Stato. Ma delega sto cazzo testa di cazzo che non sei altro. Ma com'è che c'è questo clima così infuocato? Scusami un attimo. Calma. Hai sempre detto che calma, l'altro che dice calma, prima provoca lo scontro e poi dice calma. La carne di cervo, scusami, Paolo, la carne di cervo però è ottima. Posso dirti una cosa, Kevin? Quanto è buona la carne di cervo, Kevin? Dimmelo. È il top assoluto, caro. Ma chi sente un cancro di coglioni testa. Ma di è cazzo. Ottima la carne di cervo. Ma la carne di cervo è buonissima, non l'hai mai assaggiata tu? Forse nel periodo in cui non eri vegano. Sinceramente, io ovviamente come tutti mangiavo carne. La carne di cervo sinceramente non mi risulta. Ma ho capito, ma i cervi servono anche a questo, a darci la carne di cervo. A darvi la carne. Ma certo, assolutamente Paolo, assolutamente. Perché la carne di cervo serve anche a questa roba qui, è inutile che ci giri intorno. Perché così? Perché gli animali sono inferiori, devono essere protetti, ma non troppo, protetti quando bisogna proteggerli. Gli animali devono stare fine, dopo per te sono inferiori, sono superiori. Ma uno come Vissani, che ne pensi di uno come Vissani, per esempio? Cioè, i soldi li daresti a quelli che vendono la carne, a quelli che cucinano la carne, ai ristoratori che fanno la carne, o no? Ma il discorso è ognuno nella vita, te l'ho già detto in altre puntate mi sembra, molto pacatamente, può fare quello che vuole, Visani fa il ristoratore eccetera, che faccia il ristoratore, cavoli suoi, ecco, è convinto di fare una cosa bella, è a posto con la sua coscienza soprattutto, sono però problemi suoi, dov'è il problema? No, ho capito, ma uno, che, uno che vende la carne per te è uno contribuisce al grande assassinio, cioè, evidentemente, no? Cioè, questo è il punto fondamentale, uno che cucina la carne, un ristoratore che cucina la carne, che mestiere fa per te? Cosa vuoi che ti dica? Ma mi paragoni, scusa, Vistani è un cacciatore di merda, non ho capito, scusami. Ma no, ma mica... ammazzano animali, ma indirettamente, cioè, cosa stai dicendo? Cruciani lo fa... Allora, lui è uno che ha un hobby. Kevin, tu lo fai per hobby? Tu il cacciatore, Kevin, lo fai per hobby, il cacciatore? Dimmi, aspetta, aspetta. Purtroppo non è il mio lavoro. Allora, lo fai per hobby? Lo fai per hobby? Cioè, tu uccidi cervi, eccetera, per hobby? Sì. Che male c'è? Non ho capito, Mocavero, cioè questo lo fa per hobby, ci sono tante persone che hanno tanti hobby. Infatti, ma ti sto dicendo, a 26 anni uno che c'ha sto hobby è una testa di cazzo, uno sfigato di merda, e ti ripeto, se lo vedono al Giro d'Italia, lo assumono come brevettatore di manopole, dico, chiaro, capisci? Però scusami una cosa, ti devo, lo sai il caso del cane quello là di Napoli? Cioè il caso del cane ammazzato? Quello, il poliziotto che ha ammazzato il cane. Il poliziotto che ha ammazzato il cane. Cosa vuoi sapere? Ma spero che tu sei dalla parte del poliziotto, che non sei così pazzo da metterti dalla parte di quei, allora, di, quei forze, di quei forsennati che pensano di incriminare un poliziotto perché ha battuto un pitbull o quello che era. Sì, vabbè, se mi hai rispondere ti rispondo, se no continuare di quello che vuoi. Dimmi. Io ti sto dicendo semplicemente che non c'ero alla scena, non ho visto, l'ho visto solo le immagini, quindi non so la dinamica dei fatti. Ma non è che, voglio dire, io devo condannare uno, questo e quell'altro. Un incidente può capitare, il poliziotto si è trovato davanti a questa scena, l'ha ammazzato, bisogna vedere la dinamica, se però verrà attribuita la sua colpa, allora ma quale colpa? Ma non si può. Ma roba da pazzi. Fermi tutti, fermo, scusami, scusami. Fermo, cavolo, ho finito, fermo. La zanzara. You are not an open book, I can't do nothing about that. But I'm worried, I'm overdrawn, what am I doing up at the witching hour? Io un tempo uscivo con gli uomini e parlavo di filosofia. Parlavo di Schopenhauer, parlavo di Nietzsche. Adesso, dopo due mesi di confinamento in cui praticamente ho ascoltato ogni giorno soltanto voi, cioè, a me sembra normale uscire con un uomo al primo appuntamento e parlargli come se niente fosse di figa pelosa, pallame rasato, squirting, piedi. E questi mi guardano come per dire, ma questa dove cavolo è uscita e nessuno di loro vuole fare seriamente con me. Cioè, questa è soltanto colpa vostra. Cioè, è colpa vostra. Sono Giulio da Taranto e anch'io quando viaggio in macchina con la mia ragazza mi lascio il vibratore acceso nella passera. I love my radio. Tu cosa dici? Allora, prima di Fausto dalla provincia di Milano, che battaglia, caro David, c'è una cosa che voglio farti sentire. Un signore in Veneto, non so se lo conosci, un consigliere regionale che si candida anche a presidente della regione per il Partito dei Veneti. Il Partito dei Veneti. Beh, spettacolare. Però potrebbe... Il Partito potrebbe, dei Veneti. Partito dei Veneti, sì, Partito dei Veneti, che non ma ci può essere un Partito dei Veneti, ma ci può essere un Partito, carità, Partito dei Veneti. Di Dio, ma per carità, ma va benissimo, ma voglio anche il Partito dei Bergamaschi, anche il Partito di Libero, anche il Partito di Feltri, quello che volete. Però perché io sono veneto, ad esempio, perché dovrebbe essere... Sono, come sai, no? Io sono padovano, sì, vabbè, veneto, rinnegato ormai, Italia, sei un rinnegato. Sono, io sono padovano. Diciamo la verità, sei un rinnegato, sei un rinnegato. Io sono... No, guarda, lascia stare Padova perché tu... con Padova io un giorno bocca sto zitto allora non ho capito da dunque... qui a venerdì rivelo tutto. Dimmi, primo vabbè, io allora... sono padovano padovano veneto italiano ed europeo. Cosa vuol dire un partito dei Veneti? Partito dei Veneti, cosa vuol dire un partito dei Veneti? Ho detto cosa vuol dire. Allora, però, lascia perdere adesso il Partito dei Veneti. Ognuno chiama il partito come vuole. Partito dei Veneti. Ma sì, ma per carità, ma per carità. Però c'è ma vita, ci può essere anche il partito. C'è vita. Ma senti può essere... che ha detto dal signor Gottardo questa mattina, questo signore qua. Eccolo là. Questo ecco signore la marchetta. Qui. No, ecco che marchetta. La marchetta. Uno dice ecco una cosa che c'è. La doppia marchetta. Ma quale doppia marchetta? Al Partito dei Veneti e no, e perché non ti spiego. Poteva essere Gottardo. Perché ti spiego. Il Partito dei Veneti, ovviamente. Senti che ha detto sulla prostituzione. Avete svenduto questa televisione, questa radio. Avete svenduto. tutto questa radio, guarda. La prostituzione c'è sempre stata in ogni luogo e in ogni tempo. Chi ha deciso di gestirla ci guadagna anche. La sconfitta dello Stato sono 60 anni di legge Merlin, che ha tolto le prostitute dalle case di tolleranza e le ha lasciate in mezzo alle strade a fare quello che stanno facendo. Il problema è dilagante, ce ne sono decine di migliaia. La faccenda non è, l'alternativa non è quella no prostituzione, sì prostituzione nelle case di tolleranza. L'alternativa è prostituzione sulle strade e prostituzione controllata sulle case di tolleranza. La mignotta la dovrebbero mettere nel tricolore, perché in questo momento girano liberamente sulle strade e sono infette e infettano. Dove sei, Veneti? Allora, io voglio fare, caro David, con questo signore qui una grande alleanza elettorale. Te lo posso dire? Te lo posso confessare? Voglio fare un'alleanza elettorale Partito dei Veneti Liberi Armati / Zanzara sul tema della prostituzione. Si può fare, David, secondo te, questa grande alleanza? Oh, no. Si può fare o no? Come no? Perché non si può fare? No. Io la voglio fare, assolutamente. Eccolo qua, Guadagnini è qui presente. Guadagnini, ciao. Ciao. Allora, ti propongo una cosa, caro Guadagnini. Vogliamo ribadire innanzitutto che tu sei assolutamente a favore della legalizzazione della prostituzione, e se avessi il potere di farlo faresti dei bordelli in Veneto? Guarda, la faccenda del Covid di questi giorni mi pare che sia tutta a mio favore. Ci sono delle ragazze che si infettano e che inconsapevolmente o consapevolmente vanno ad infettare i loro clienti, e pazienza per i clienti. Ma poi questi clienti infettano i loro familiari. Sì, il caso di Cola, come si chiama, della Sicilia, eccetera, sì. Ma chissà quante ce ne sono, perché ce ne saranno tante di asintomatiche che tirano diversi clienti ogni sera, poi questi vanno a casa. Ma sì, ma certo, ma poi non è nemmeno un problema questo, nessuno di queste persone qua va in ospedale, capito? Cioè nessuna di queste. Comunque, in ogni caso, il problema è molto semplice, bisognerebbe controllarle, dici tu, no? Esattamente, in Austria cose non succede perché hanno controlli sanitari rigorosi, eventualmente, siccome sono tutte dentro alle case di tolleranza, le chiudono in caso di emergenza, quindi il virus viene spento. Allora, però, Guadagnino, ho capito bene, cioè tu dici, cioè, meglio alla fine, per una serie di ragioni, meglio controllarle piuttosto che il resto, non c'è dubbio. Però allora, io dico una cosa, tu ti presenti come presidente della Regione Veneto, non penso che tu abbia molte speranze di vincere, ma questo chi se ne frega, perché Zaia prenderà un sacco di voti. Però, amico mio, bisognerebbe fare una grande alleanza, ti vorrei dare una mano, se tu accetti la candidatura di qualche nostro esponente della Zanzara a favore della legalizzazione della prostituzione nelle tue liste. Sto pensando per esempio, Parenzo, al Conte Dolfin. Che dici? Il Conte Dolfin si potrebbe candidare tranquillamente nelle liste di Guadagnini del Partito di Veneto. Che dici, è una persona talmente autorevole e intelligente che starebbe benissimo in questo partito, ottimo, sarebbe ottimo. No, ma illustre. Ma guarda che il Conte Dolfin è un grande. Ma il Conte Dolfin, ma andate a fare il culo. Ora, voglio dire, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del Conte Dolfin, che è quello lì che ha detto, cioè, incecciava tutto. Cioè, di questo stiamo parlando. No, di quel Conte Dolfin, una persona che quello che gli diceva e incecciava tutto, quello lì è il Conte ragazzi, Dolfin. Ragazzi, no? La questione è fondamentale. Il Conte Dolfin è a favore della legalizzazione della prostituzione. E la Zanzara, con Liberi Armati, solamente col logo della Zanzara, può dare una mano al Partito dei Veneti nelle elezioni venete sulla base della legalizzazione della prostituzione. Guadagnini, lo facciamo sta accordo o non lo facciamo? Ma lo facciamo, sì, perché siamo d'accordo, sta roba che è un'operazione di civiltà, ripeto, in Austria, nel caso, ma Austria funziona così, non dobbiamo. Sì, ma certo, ma lo sappiamo che funziona così. Dunque, io metterei nelle tue liste qualche nostro rappresentante, qualche testa di ponte, caro David, anche la signora Lores o qualcuno in qualche provincia. Mettiamolo dentro, mettiamo i due simboli insieme e siamo a cavallo. Vi possiamo dare una mano a prendere almeno un consigliere regionale che possa. Tu che cosa vedi all'orizzonte? Ci potrebbe essere l'idea di aprire delle case di tolleranza in Veneto? Sarebbe... Non so se si possa fare, ma la speranza è quella o no? Parli con me, sì, io, sì. Questa ripeto è una battaglia di civiltà. No, ma dico, ma si può fare in Veneto o no? Secondo te lo si può fare in Veneto o no? Allora si può fare, serve una legge nazionale. Io ho progetto di legge. Sì, ma dobbiamo rompere questa cosa qua, legge nazionale, eccetera, eccetera. Facciamolo lo stesso, cioè cerchiamo di fare lo stesso, facciamo la rivoluzione in Veneto, case di tolleranza in Veneto, apriamo i bordelli, cerchiamo di forzare la mano, Zaia non lo farà mai perché alla fine è un democristiano. Guadagni, questa è la realtà. Ciao, non si sente un cazzo tanto, ciao. Aosto, provincia di Milano, vai. Buonasera, dottor Parenzo. Buonasera. Stefano da Torino, ragazzi, non sento. Stefano da Torino, vai, forza. Stefano da Torino. Ciao, Crux, oh, ciao, Parenzo. Ecco, finalmente, io, avanti. Brevemente, volevo solo dirvi questo. Dimmi, io dimmi. Sono d'accordo con quell'ascoltatore di prima che ha detto che Parenzo ha una faccia da porco. Ora, oh, finalmente, finalmente si parla di qualcosa. Ma io voglio, ma io voglio dire una cosa. Delle volte bisogna parlare chiaro. Io ma vi sembra normale? Aspetta, Stefano, dimmi, dimmi, dimmi, che volevi dire? No, voglio dire che le persone a Torino c'era uno scienziato a fine 800, si chiamava Cesare Lombroso. Lui sì. dalle facce sì. capiva che cos'era una persona. Sì. Le persone con gli occhi piccoli, vicini, la fronte pronunciata, come Parenzo, sì. ma erano tutti dei maniaci sessuali. Beh, al Museo Lombroso di Torino. Sì, adesso però maniaco sessuale io non direi. No, maniaco sessuale no. Però ma sicuramente come un aspetto maiale. Un aspetto ma maiale nascosto, come ha giustamente osservato l'ascoltatore precedente. Tu riprendi il filo del discorso, caro Stefano, ma perché sì. anche tu quando lo guardi in faccia ci vedi un aspetto perverso. Allora, una persona ti dico che solo magari questo, si. Poi chiudo veramente sì, dimmi, perché dimmi. C'ho il pollo che nel fondo, bravo, mi si brucia. Chiedo, però. Dimmi. Cioè, io ho presentato Parenzo alla mia signora durante una trasmissione sulla 7. Gli ho fatto vedere, questo è Parenzo, perché ogni tanto sulla radio sì, sì. sentiamo. Questo è Parenzo. Lui guarda, Parenzo, ma quello che lì ha detto la signora? È porco. E mia moglie è una brava ragazza. Ti ha detto quello è un porco, così? È un porco, assolutamente un porco. Assolutamente. Ma come si permette? ma chi è la sua signora? La sua signora, se lo faccia dire, è una volgare. È una signora volgare, se lo ma faccia no, dire, guardi. Ma sta scherzando, la sua signora. Ma quale è la classica ragioniera in stile Dwight Fenech, è la classica ragioniera in stile Dwight Fenech, quella lì. Wait for me, world, wait for me. Wait for me, world, wait for me. Wait for me. Romano da Parma, vai, Romano da Parma, dimmi Romano, dimmi. Ciao, mi senti? Sì, sì, ti sento Romano, dimmi. Allora ascolta, io ascoltavo la trasmissione prima e ho sentito Mogavero parlare e proferire una serie di improperi contro i cacciatori. Beh, non è la prima volta, diciamo, il signor Mogavero ha diverse querele anche contro i signori cacciatori e io sono sempre dalla parte dei cacciatori, però come sapete in questa trasmissione c'è una grande libertà di espressione, secondo Parenzo anche eccessiva, secondo me no, ma comunque insomma, vecchio discorso, dimmi Romano, dimmi. Ma cioè volevo solo sottolineare questa cosa. Ma sei un cosa, cacciatore cioè, tu, non ho capito. Scusa? Sei cacciatore? Sono un cacciatore, ho smesso di andare a caccia, ma lo sono stato e diciamo che lo sono, perché nella mia indole c'è la indole da cacciatore. Io dico che si può essere favorevoli, si può essere contrari, però prima di proferire improperi come ha fatto il signor Mogavero, io ho perso anche degli amici a caccia. Che per lui è contento, non hai capito ancora Romano, cioè lui è contento quando succedono queste cose, sì, cioè lui è contento. Dico una cosa, è vero, ho capito e ho anche apprezzato che voi avete cercato di moderarlo. Ma moderarlo, ma il problema fondamentale è solo uno, conosciamo Mogavero, sappiamo quello che pensa sui cacciatori, ogni volta supera se stesso, signor Mogavero. Però ha trattato allora quel molto. Povero cacciatore di cervi come male. Un pezzo di merda, come uno che no, mori esatto. e tanto è uguale, e tanto è così, cioè, ma se ne fotte esatto. anche di quello che succede in tribunale quando lo querelano, lo hanno querelato anche durante il coronavirus per alcune cose che ha detto qui in questa disgraziata esatto. trasmissione. Mamma mia. Ma quello se ne sbatte con io, intanto è nulla tenente, non gliene frega niente, nemmeno delle condanne. È fatto così, signor Mogavero, prendere o lasciare. È fatto così, dice fatto così, giustifica qualunque cosa. Ma io non sto giustificando nulla. Qualunque aberrazione, dice fatto così. E lui com'è? Ma guardi Hitler, e sì, vabbè, è fatto così, come è fatto così. Guardi lì, il signor Mussolini, dice sì, caricava le persone sui treni, vabbè, ma è fatto così. Ma come fai a dire fatto così? Ma voglio dire, ma tu se fossi vissuto negli anni 30, ti avrebbero intervistato alla radio, no? La radio di regime, scusi se ti avessero intervistato, e tu. Scusi Cruciani, lei come giudica Mussolini? Ma cosa vuoi? Ha fatto così? Dice scusi, come ha fatto così? Carica delle persone sui treni, fa le leggi razziali e le manda nei è fatto così? Ma come fa? Come fai a dire cosa. È fatto così? No, detto, come si fa a dire me. È fatto così? Ma no, cioè, scusi lei, che cosa pensa di questo signore che ha appena squartato un rom, ha incendiato un campo? Ma sa... È fatto ma quello così. È un reato che compie. È fatto così. Se uno dice che i cacciatori dici, devono è fatto morire così. È quando fa atti no? di violenza o di istigazione alla violenza, dice no. i cacciatori devono morire. Ma sai, è fatto così. Ma no, è tanto buono, ma è fatto così. Ma ti fermola, sembra una fermola, cosa fermola. Normale? Fermola. Ma no, fermola, ma fermola un cazzo. Non c'è da fermola. Logica, spazio, tempo. Modul block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Da lunedì chiude la radio Belzebù. le forze del bene hanno vinto. Cruciani, per piacere, fammi parlare con suo figlio di puttana che disse che gli autotrasportatori sono tutte bestie. Fammi parlare con suo figlio di puttana. Vado facendo camionista. Figlio di puttana. Trasporti su onesta città. Ma se non siamo noi che portiamo la merce tutte le notti, suo figlio di puttana, non è che può mangiare la roba fresca tutti i giorni, capito? Fammi parlare con suo figlio di puttana. Rindassa giacche camionista. Rispondo a quello stronzo ciclista che dice andate a fare in culo camionisti e quant'altro. Tu sei in giro a divertirti, brutto stronzo, va bene? Allora ti becchi. Se vuoi essere un mezzo rispettato nella strada e vuoi avere i pari diritti di un camion, di un trattore, di una macchina, ti metti la tua targa, ti fai la tua assicurazione, ti metti il tuo cazzo di casco. Così quando passate col rosso, vi mettete e fate ostruzioni al traffico, ti insultate, noi sappiamo chi dobbiamo venire a prendere. Bravo, bravo. Eccolo. La prima cosa da fare è salvare le imprese in questo momento. Forse non è chiaro quello che accade. Beh, chi prende lo stipendio fisso Daniele, il 27, questo non lo capisce. Chi ha lavorato in questi mesi? Chi ha lavorato? Claudia, deve pagare ti sei le fatta tasse. Un giro nelle città italiane? Hai sì, presente Daniele, quello che sta accadendo? Me ne sono fatto il giro. Allora ma forse non hai ha visto lavorato, bene. Siamo d'accordo. Un 20% ha lavorato, quel 20% li deve pagare. Li vuoi ammazzare? Che gli no, vuoi fare? No, io voglio ammazzare. Guarda, questo lessico, questo lessico non mi appartiene. Io non ammazzo nessuno e per favore non mi attribuire questo lessico perché non mi appartiene. Ma è la sostanza, Claudia, li ammazzi okay, materialmente allora, nella loro vita, no? Buona. Fermo! Buona. Pappalardo, ragazzi. Buona. E come si fa con i chihuahua? Buona. Come si fa con i chihuahua? Buona. Fammi sentire con Pappalardo. Con i chihuahua si fa così. Buona. Fammelo sentire ancora. Buona. Io senza il generale non so vivere, vai. Buona. Generale. Esatto. Buona. Cruciani e Parenzo, che coprite di fango e di parolacce il nostro movimento. Ma e dove? I nostri esponenti. Ah no, non c'è Cruciani bisogno. Parenzo, ma quali esponenti? Di cosa strada? Parla? Alla fine vedremo se ci sarà un magistrato che vi indagherà. Ma perché per cosa? Ora no, perché i magistrati vi proteggono tutti. Ma per che cosa? Ma perché cosa? Non ho capito, perché cosa? Ma perché cosa sì? Chiedo scusa. Chiedo scusa. E che cosa? Intanto mi metto in mezzo alla corrente e faccio qualche starnuto. Se ci fosse uno di questi cialtroni già mi avrebbero fatto il tampone. Ma no, il tampone immediatamente. Immediatamente. Mi avrebbero fatto il tampone questi cialtroni. Buona. Io sono un artista, scrivo grandi opere. Io sono un artista, scrivo grandi opere. Voglio il ponte tra Mazara e la Tunisia. Senti. Ma che pazzo, Vedete la differenza che c'è fra chi è come me un artista, sì. Uno che fa grandi opere e quello di guardare molto lontano. Io guardo lontano, perché voglio il ponte sullo stretto di Messina e il ponte fra Masera del Vallo e la Tunisia. Voi lo sapete cosa vuol dire come quelli che sono nelle cliniche, no? Guardano lontano. Che tutti devono poi passare per l'Italia per andare in Africa. Un'opera enorme. Beh, sì, è enorme, la gente non c'è si toglierebbe pazzo, il cappello. No, dobbiamo fare sempre i pidocchiosi. Ma, scusa però è già difficile fare in Italia un viadotto, è già difficile ma si fa fare la TAV, ma non si può fare il ponte tra Mazara del Vallo e la Tunisia, ma poi per trasportare cosa, chi, come, perché no poverete completamente. Però ragazzi, Gentleman 73 di nuovo con noi per le avventure di un bull. Caro Gentleman, buonasera, eccoci qui. Caro Beppe, buonasera, eccoci qua. eccoci qui. Al dottor Parenzo. Omaggio, tutti omaggio. Allora, questo qua, come sai, questo qua è un signor Bull. Ma da quel paese. Ma perché? Scusa, il Bull. Il Bull è uno che si scopa le coppie. Il Bulldog. Un po' di gentilezza. Il Bulldog. Allora, si chiama Gentleman. Si chiama Gentleman. No, è uno che scopa la donna di una coppia. Ogni tanto hai trovato. Ma che è una bella cosa. Che è una bella cosa da fare, secondo te. Bellissima. Ma bellissima per lei e non per il cornuto, però. Sarà meravigliosa per lei. Il cornuto è quello che si diverte di più, secondo me. Perché lui richiede questa situazione un po' particolare. Questa è la solita storia che fate passare per normalità. Cioè che uno dovrebbe essere felice di essere cornuto. Certo. Dice amore, cosa ma facciamo stasera? Guardiamo. Uno dice amore, stasera cosa facciamo? Guardiamo in onda? No, stasera non guardiamo in onda, chiamiamo il Bull. Ma dico, chi è il Bull? Scusa, no, il Bull è un signore che viene qui e si occupa di me. Ma come mettere un po' di pepe nella propria relazione? Niente di che, è contro la noia. E secondo me, e posso dire, secondo me, nei dintorni di casa Parenzo c'è qualcuno amico mio, potrei rivelare dottor delle cose Parenzo, che non voglio, Parenzo, non voglio dire nulla. Cioè? Nei dintorni cioè di casa Parenzo, io ho detto nei dintorni di casa Parenzo, c'è qualcuno non completo, cioè che non dico che è disponibile, ma non è che è così negativo su questa possibilità. Cioè non ma è così, chi è non lo so, questo non si può dire. Natania da casa Parenzo. No, quello non lo so, non lo posso dire. Secondo me a casa Parenzo, nei dintorni, nella grande famiglia Parenzo che c'è, comprensivo anche gli amici, c'è qualcuno non è totalmente contrario a questa roba. Provi ad allargare il suo orizzonte, dottor Parenzo. Ma non voglio allargare nessun orizzonte. Sì, allargare, non so, gli allarga qualcos'altro, appunto. Allora, allarga qualcosa di qualcun altro, anche con le mani, magari. Io voglio capire una cosa, gentleman. Dopo la telefonata, la prima telefonata che abbiamo avuto, ricordo che lei è un Bull che opera diciamo nel nord Italia, in particolare tra Veneto, Trentino, eccetera, eccetera. Vorrei capire una cosa. Ha ricevuto delle telefonate, ha avuto anche un'esperienza in macchina. Vuole raccontare allora, a Parenzo la bellezza di questa cosa? Grandissima esperienza. Dopo il mio intervento, ovviamente, ho avuto un revamp del mio profilo, sono stato richiesto e quindi si è creato questo incontro con una coppia veneta dove sono stato contattato da lui che mi chiedeva se potevamo vederci sabato sera in zona Verona Est, in un parcheggio? Ci saremmo incontrati in un parcheggio per poi vedere un po' il da farsi. Sì, che il da farsi, vedere il da farsi. Sì. Ci siamo scambiati qualche messaggio. Ho verificato che ci fosse una presenza femminile, perché non si sa mai. Hai parlato anche con lei? Hai parlato anche con la signora? Certo, ma come vi siete messi lei d'accordo? Con che modalità? Perché c'è un accordo prima su quello che si può fare, quello che non si può fare. Cosa vi siete detti? Beh, sì, insomma, ovviamente soliti accordi, niente violenza, che personalmente non gradisco. C'è chi gradisce, ma io personalmente non sono in questo. Cosa si può fare, cosa non si può fare? Analesia, anale no, che ne so, cose così. Quelle solite cose, ingoio sì, ingoio no. Poi cose, ovviamente sesso protetto, cose, ovviamente. Vabbè, sesso più protetto, non c'è dubbio, ma l'anale l'ha accettato la signora, mamma mia. Sì, l'ha accettato, ma la cosa che Beppe, che apprezzerai molto, che la signora ha subito detto, ha fatto una precisazione. Qual era? Che non era completamente depilata, perché lei è contraria al petto di polpo. E tu, tu come hai accolto questa cosa? Beh, io ho accolto Sava Sandir. A te che cazzo te frega, è uguale. No, apprezzo molto. Poi, molto. Senti, dove è avvenuta la cosa? C'era già l'accordo di farlo in macchina col marito che guardava? No, è nato, ci siamo incontrati in questo parcheggio fuori da un centro commerciale a Verona Est. Sì. Lei è arrivata tutta agghindata, bellissima, coi tacchi, vestito da sera. E quando siamo arrivati siamo stretti la mano, abbiamo fatto tanto, ci eravamo scambiati le fotografie, avevamo parlato al telefono, quindi non era un incontro al buio. Sì. Quindi, dopo che si è rotto un po' il ghiaccio e vedere che c'era quel feeling dal vivo, lui mi ha detto, beh, allora facciamo così, prendiamo la macchina, voi potete mamma mettervi mia di dietro. Sì. E lui si è messo a guidare questo BMW nero, interni mamma in pelle, macchinone incredibile. E voi avete scopato dietro, in sostanza. La cosa bella è stata che, mentre lui guidava e noi eravamo dietro che facevamo quello che bisognava fare, girava prima per le zone di Verona, poi preso l'autostrada in direzione, penso, Desenzano, quindi il lago di Garda, e ovviamente lui... Ma nel frattempo voi che aveva mani, lei che ti... racconta, lei che ti faceva una pompa, che cosa? Certo, allora, praticamente tutto aveva un intimo anche molto ricercato, ok? Poi aveva un pelo morbidissimo, veramente morbidissimo. Cioè, praticamente voi dietro sì, avete scopato, avete fatto tutto dietro, e lui davanti che faceva? Guidava e basso, si è fermato? Lui guidava, ovviamente mi incitava dicendo... Ti piace questa troia, perché lui piaceva questa parlando qua. Della moglie. Sì, parlando della moglie. Per chi votava questo qua? Per chi vota questo? Per chi vota uno che parla così della moglie? Voglio sapere. Ma che cosa non dite? Non abbiamo chiesto, non abbiamo toccato questo argomento. Molto però la frase è fondamentale. A un certo punto lui ha detto ti piace questa troia, giusto? Sì. Parlando della moglie. Io coi soldi del MES faccio chiudere questa trasmissione, perché il MES sono spese sanitarie dirette, qui ancora non è detto che qui c'è una spesa di... Io voglio chiedere il MES per far chiudere questa trasmissione, perché spese sanitarie dirette e indirette per far ricoverare questi miserabili che chiamano qui. No, il MES va utilizzato anche per questo bull. Io voglio dire, ma come fa questo qui che guida la macchina a parlare così di sua moglie? Beh, è un coglione. Ma che coglione, invece è una fonte di eccitazione sia per lei che per lui. Dai. Lei, dottor Parenzo, secondo me si perde una sfumatura. Quale altri, frasi ti ha detto mentre tu ti chiamavi la moglie? Scusami, gente. Ah beh, sì, diceva ovviamente fatti succhiare il cazzo, tutte queste cose qua. Ma la cosa bella, che mentre guidavamo e quindi facevamo, facevamo tutto quello che bisognava fare, insomma, poi lui ha portato la macchina in un parcheggio un po' in una zona che lui conosceva, sicuramente defilata, più tranquilla, dove abbiamo potuto finire in tranquillità, e dove lui guardava, uscito dalla macchina, guardava dal finestrino. Quindi ovviamente faceva caldo, quindi finestrini giù, non c'era nessuno, e lui diceva ti piace questa vacca, questa troia, così. Ma alla fine si è masturbato? Si è masturbato? Sì, lui si è masturbato fuori. Ma la cosa bella, quando abbiamo finito tutto, abbiamo finito tutto, e qui è veramente il top, e qui veramente... Qual è? Ospitalità Eschemese ha aperto il bagagliaio, nel bagagliaio ha tirato fuori due bottigliette d'acqua e ce le ha servite, due asciugamani, per asciugarci, e per la signora una banana... il frutto per recuperarsi con un po' di potassio, cioè per organizzazione perfetta. Le Porca grandi l'idea. Avventure di Gentleman. A presto, ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Buona. Capezzone. Parenzo, dici a chi chiama la zanzara che è un coglione. Il primo coglione sei tu, Parenzo. Oggi torna così, ragazzi, se vi siete salvati alla diretta siete miardati, fratellino, prendi il muro, fratelli! Il voyeurismo è l'eccitazione massima dell'uomo per eccellenza. Non c'è situazione mentale di godimento che può dare questo gioco dello spiare la coppia che fa sesso. Questo il nostro carissimo amico Salieri ce l'ha insegnato già negli anni passati. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. E questo strumento deve diventare come una cravatta, un foulard, una collanina, un braccialetto, un piercing. Solo qui, David, solo qui si ascoltano queste cose, solo qui, diciamo la non verità. Non lo direi con questo orgoglio, sentendo poco fa Capezzone mi veniva in mente questo aneddoto che ti voglio raccontare. Mesi fa, prima del Covid, organizzai una cena a casa mia con 20 persone. Sì, hai fatto questa pagare cena queste persone, era... le hai fatte pagare? No. Questa cena si era prolungata molto molto a lungo e le persone non volevano più andare via. Allora ecco l'idea, dico vabbè aspetta, dico chiamo un amico che viene a bersi il bicchiere della staffa. Tu dicono chi è? Dico una sorpresa. Viene Capezzone, dopo due minuti la gente era tutta andata via, tutta. tutta. È uno sfolla gente, meglio detto anche sfolla figa in alcuni ambienti, ma in realtà è uno sfolla gente vero. Quindi quello che io consiglio è, se avete dei problemi a casa perché avete degli ospiti che non vanno via, lo chiamate, lui arriva, due minuti e si svuota la sala, perché lui arriva e subito tu gli cominci a dire: ah, buonasera, prego Capezzone, si accomodi. Primo, rimango in piedi, non mi siedo sui divani. Secondo, voglio bere subito uno scotch whisky. Terzo, prendetemi la giacca. Allora lui appena entra, capisci che se tu hai questo atteggiamento, alla gente cambia opinione. Sì, no, stai subito sul cazzo. Subito, certo. Appena tu lo inviti, subito. Primo. Allora, buonasera, capisci. Uno, primo, non mi siedo. Dico, cazzo, sono da casa mia. Secondo, subito uno scotch whisky. Terzo, prendetemi la giacca. Cioè, che cazzo vuole questo? Buona. Allora, esatto. Come si fa con i chihuahua? Smettila. La Demari, residuo della Demari ancora, spermatozoi solo nella vagina. Cosa vuol dire? Non lo so, sentiamo. No. La signora Demari. E diciamo che la Demari scrive sullo stesso quotidiano cui scrive. Capezzone, non vorrei che mi dicessero. Ma è vero. La Demari è fattuale, diciamo, come direbbe qualcuno, è fattuale. Esatto, sullo stesso quotidiano. E non c'è dubbio. Sul quale, anche Telese. Però scrive su quel quotidiano, anche il signor Telese. Io non ho ombra di dubbio, ma io infatti non ho dubbio alcuno. Cioè. Se l'ano e la faringe sono stati fatti per essere usati come balocchi. Il seme dell'uomo è stato fatto per andare dentro il corpo della donna, nella sua vagina. Ma perché? Chi te l'ha detto? Perché il seme dell'uomo è citotossico. Ovunque vada, attenzione, fa danni, ecco. Con l'unica eccezione della vagina, del collo dell'utero, quelli sono corazzati per non subire danni. Primo. Lo spermatozoo, a un certo punto, tutti abbiamo visto questa immagine dell'ovulo circondato da una corona di spermatozoi che stanno sfondando la membrana molto spessa dell'ovulo, fino a quando uno riesce a sfondare. Per cui questa roba fa dei buchi nelle cellule. Come fanno il buco nell'ovulo, che è molto corazzato? Fanno il buco in qualsiasi cellula. E allora? E una volta che sono entrati in una cellula, tendono a mischiare il loro patrimonio genetico con quello che c'è già, facendo ulteriore casino. Quindi ovunque si mettono gli spermatozoi, che non è la vagina, non è bello. Ma non ho capito, ma adesso io non sapevo questa cosa, citotossico. Cioè, lei dice sostanzialmente, sarà pure vero, non lo so, che gli spermatozoi vanno solo nella vagina. A parte che volevo dire alla signora De Mari che ci sono anche le protezioni, diciamo, no? Per evitare quello che lei immagina come una cosa negativissima, cioè dire il fatto che lo spermatozoo entri in contatto con qualcosa che non va bene. Per cui il punto non è quello, cioè, no? Il punto, esistono anche le protezioni. Ma di cosa? Però questa cosa, cosa che la, no, questa cosa che lo spermatozoo, lo sperma è citotossico. Ma adesso io questo non lo so, francamente, non mi sembra che sia così. Comunque, ancora, l'unica ancora, cosa da ricordare è che questa signora scrive nello stesso quotidiano dove scrive Capezzone. No, è l'unica cosa da dire, aspetta, da ricordare, senti l'unica. Senti, che se fate un rapporto anale avrete un male porco che rischiate un'incontinenza fecale che moltiplica fino a 20 il vostro rischio di malattie sessualmente trasmissibili, ma soprattutto che se non usate montagne di gel e non fate una divaricazione progressiva, potete finire in pronto soccorso con una lacerazione. Ma è tutto drammatico, la lacerazione, le cose, tutto drammatizzato. Che stai? Che succede? La sostanza è che se domani mattina il mio candidato premier preferito, cioè Nicola Porro, volesse abbassare le tasse con quei soldi, non potrebbe farlo. Lo fa tagliando la spesa come la Porro. Se volesse allontanare le scadenze fiscali, non potrebbe farlo. Se volesse. Buona. Poi esiste uno studio di un'università che si chiama Yale che dice invece che l'omosessualità è diffusa in oltre 1500 specie animali, che non c'è nessuna deviazione rispetto alla normalità, anzi nella storia dell'evoluzione la bisessualità sarebbe venuta prima. Caro Parenza, anche questa cosa è importante. Tu sei sostanzialmente bisessuale. Cioè la bisessualità, ma assolutamente. Ma è venuta prima. Ma l'eterosessualità esclusiva potrebbe essere una derivazione che si è presentata successivamente. Cioè tu sei nato bisessuale. Sei nato bisessuale, bravo, sì, giustamente, lo confermi. E poi sei diventato eterosessuale. Però tu sei nato bisessuale. No, sono sempre stato eterosessuale io e basta. Che devi farvi, ragazzi? Oh. Una roba incredibile, guarda. Nicola da Lucca dovrebbe essere un signore che è presente su Bacheca Incontri come coppia. Stasera grandi esperienze. Dopo il bullo c'è anche la coppia che è su Bacheca. Nicola, buonasera. Buonasera, signor Nicola. Ciao Cruz, ciao. Allora, insieme alla sua signora o alla sua fidanzata è presente su un sito, sì, caro Parenzo, come coppia. E ho scoperto, non lo sapevo, mea culpa, mea grandissima culpa, che sostanzialmente si fa pagare per essere guardato. Questo è pure incredibile come cosa. Mamma cioè lui mia. È chi è? La tua fidanzata? Con chi sei iscritto a questa Bacheca? Sì, Cruz, sì. Ciao Lorenzo. Con la tua fidanzata, scusami Nicola. Sì, sì, sì. E tu ogni tanto ti... coppia, tutti gli effetti. Ma tu ti fai pagare per che cosa? Ma, come funziona nei club privé, che il singolo paga l'ingresso e la coppia entra gratuito, sì, giusto. Le coppie funzionano alla stessa maniera. Il singolo paga praticamente la categoria voyeur, io il mio sito, il mio annuncio, scusami, è proprio basato sulla sul voyeur, categoria cioè, voyeur. Praticamente il singolo, cioè l'uomo non vi tocca, non tocca nessuno? No, può anche entrare in camera, noi proponiamo un gioco che parte col voyeurismo, quindi parte praticamente con lo spiare la coppia dietro la porta di camera. Ah, tu praticamente fai entrare, cosa c'è fai, di aspetta, divertente. Stai tranquillo, questo è interessante come cosa. Dunque, Nicola sta dicendo che lui Parenzo è il classico guerrista. Cioè, sì, questo Parenzo potrebbe. Ma io, ma io l'acquerello, le porto via qualunque cosa. No, ma che sta scherzando? No, ma come si permette? Prezzo, no. Ma come si permette? Se ma tu vai, si... se, Parenzo, ascolta, ricrociami, se tu vai nei classici film di Salieri, vedi la figura di Parenzo. Cioè, la vedi? Cioè, che uno dietro, sì, è vero, che dietro la porta si mette a sbirciare, a guardare. Ma io questo qua lo... Ma lei ne... Ma io sto già parlando con gli avvocati. Le sarà notificato a breve una citazione in giudizio. Io non guardo dietro le porte da nessuno, dallo spioggino, di niente, dalla serratura. Ma si vergogni. Io ti adoro veramente. Ma io no. Io no. Io no. Io no. Scusami Nicola, è vero che non c'è niente di male. Dunque, però la cosa strana è questa: tu attraverso un annuncio fai entrare in casa tua sostanzialmente uno sconosciuto, se non ho capito male, e come testi che non sia un pericolo questa roba qua? Col telefono prima, come ti accerti che non sia uno che ti vuole dare una botta? Abbiamo prima chiaramente durante il pomeriggio, la mattina, facciamo degli incontri, facciamo delle chiacchierate, se valuto la persona, ormai insomma hai una certa esperienza, fatto. Sì, è una certa esperienza. Hai già capito. Esatto. Entra dentro casa, dunque viene accolto e voi già state in camera da letto a scopare, a fare sesso? No, assolutamente. Viene accolto da entrambi, la mia ragazza e io. Viene accomodato in salotto, viene offerta a lui una coppa di champagne. Si parla perché a loro piace tanto parlare, piace tanto il rapporto umano, piace tanto aprirsi. Ma quanto pagano per un'esperienza così? Cioè, per fare i voyeur, quanto sono disposti a pagare? Dimmi la verità. Dipende dalla situazione, dipende dal soggetto, dipende da tante cose. Ma nessuno ti romperà i coglioni, lo puoi dire tranquillamente, Nicola. Non c'è una cifra. Vabbè, che ne so, io per far entrare qualcuno a casa mia a guardare, tu Parenzo quanto ti faresti dare per far entrare qualcuno? Ma io non voglio farmi guardare, ma io, ma forse da no, però io tu sei sensibile al quattrino. Al quattrino sei sensibile. Quando ogni tanto mi dici, ma c'è un cachet, c'è un gettoncino, ti fa emozionare il gettoncino. Il gettoncino ti fa. Certo, ma non lo. Ma no, voglio dire, io ho già detto più volte che gettoncini, ce ne sono diversi. Ma quello, io quello non lo farei mai. Ad esempio, l'altro giorno mi ha chiamato un amico e ha detto: vieni a mangiare una pizza con me. Sì, dico, va bene, vengo gratis. Sì, sì, sì. E io dico: va bene, d'accordo. Però scusami, Nicola, per te adesso... lo faccio perché sei un amico, quindi vengo gratis a mangiare la pizza con te. 500 euro è troppo? Cioè, uno chiede troppo, si chiede 500 euro per far entrare un voyeur? A volte si arriva anche a 1000. Addirittura. Beh. E c'è qualcuno, sì, sì, cioè, qualcuno ti ha dato 1000 euro per guardare? Ma quello quando si va a noi da loro, tutti altri, perché tanti ci chiedono, chiaramente persone già abituate, ci chiedono di andare noi da loro, ma sono tante le formule che si porta qui fino a domattina. No, ma capito, ma ci guadagni qualcosa serio oppure un divertissimano, una cosa per divertirsi? Non ho capito. No, stai scherzando. Purtroppo è il tempo che ci manca. Noi si riceve un ospite la sera, io sono il mio lavoro, e poi tra l'altro il mio lavoro... Ti ho mandato 100.000 messaggi, se vai a vedere. Sì, dopo lo vado a vedere. Però scusami, Nicola. Io vendo scarpe e lingerie per Chi? Ragazzi di Lap Dance, per anche escort. anche per esco. Dunque siamo un po' nel... cioè tu praticamente con la tua ragazza ogni tanto ti fai pagare dei voyeur per sì, guardare ogni tanto andiamo, quanto ce fai al mese, quanto ce fai al mese più o meno? Evitiamo le cifre, dai, su. Dai, che ne so, 2, 3, 4 mila euro, 5, che cazzo ne so, cioè 5, più 6... o meno, dai, evitiamo le cifre. Ma, che ti frega, mica c'è la Guardia di Finanza alle calcagna, mica c'è... Davide, che gli vuoi mandare la Guardia di Finanza a questo qua, non no, ho capito. No, quello non sia mai, poveretto, per carità. Mi fa specie però queste cose. Ma perché, per esempio... perché mi dispiace queste cose che lei fa. Se Cruciani ti facesse vedere 2 o 3 scene di Salieri, del mitico maestro Salieri, negli anni 90, quando scusami Nicola, però lascia perdere Salieri adesso, che pure ha i suoi voyeur, le scene in cui qualcuno guarda. Ma c'è fondamentale il voyeurismo nelle scene di Salieri, fondamentale. Spiegami una cosa, ma non va mai oltre il voyeurismo per quello che vi riguarda, cioè lui non partecipa mai a nulla. Cioè voi... Allora, ti ripeto, la scena funziona, noi proponiamo, quando siamo in salotto che si parla, gli spiego come funziona e c'è un primo step per quanto riguarda lo spiare, come ti dicevo prima, poi... e un secondo step quando la mia ragazza è eccitata, perché poi tutto da lei viene, è lei che si eccita quando è spiata, se ne accorge. Ma perché devi dire così? Aspetta, allora? Quando lei è eccitata, e io gli faccio un cenno e lui a quel momento può entrare anche dentro. E che succede? Si può toccare? Si può toccare lui? Si può toccare e può anche partecipare eventualmente. Ho capito, però, Io ti dico e te lo confermo che tanti, la maggior parte rimangano fuori. Quando si è finito che gli vado a dire ma avevi visto il gesto, la loro risposta è semplicissima. Quando, Nicola, ho provato questa esperienza dello spiare, mi sono talmente eccitato mentalmente che non mi veniva neanche di entrare e di sciupare quella che stavo provando. È così, ragazzi, è così, non c'è niente da fare. Il voyeurismo è una sensazione. Infatti, ecco perché io insisto a dire per Parenzo, perché è un sesso vissuto a livelli estremi, a livelli mentali. Ma a me non interessa, ecco, ma come glielo devo dire? Non mi interessa. Cioè, Davide, questo sesso, questo voyeurismo, i voyeuristi sono le persone facoltose, le persone che hanno potere, le persone non sono... Passami un attimo alla tua fidanzata, non ho capito, lei veramente si eccita a farsi guardare, a te te ne frega qualcosa di farti guardare, ti ecciti pure te o no? Non te ne frega nulla? Dimmi la verità, non te ne frega niente a te di farti guardare, è lei che si eccita, è lei soprattutto che si eccita. Tua... sì, oddio, anch'io sono molto esibizionista, per carità. Però diciamo lei soprattutto, viene lei da soprattutto. Lei, il gioco viene da lei, io l'ho creato. Però 30 se, dammela 30 secondi, passamela, come si chiama? Come si chiama? Alessia, come si chiama? Alessia. Ma perché? Alessia, ma è vero che tu ti ecciti a farti guardare? Ti ecciti moltissimo? Sì, mi piace tantissimo se una persona sta a guardarmi mentre faccio lavori come fidanzato. Capisci? Com'è che ti chiami tu su Alessia? Non mi sembra Alessia. Alexia, come ti chiami? Sì, in questo era Alessia. Alessia, sì. Ti piace è Alexia, quella di Amazon però. Alexia, quella lì, come si chiama lì? Quella fermi di... tutti ragazzi, Alexia, fermi scusa, tutti. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, a casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Buona. Bravo. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.